nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 aprile, il sole in regione sorto alle 5.59 tramonterà alle 20.11. Domenica ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. L'esperienza sostenibile ed etica del PAN di San Marc, partita con 5 ettari coltivati a grano con le vecchie prassi agronomiche, sta diventando un distretto economico solidale, allargando coltivazione e produzione, e arrivano i primi riconoscimenti, anche economici. È il tema del servizio di apertura, seguito da una scheda nella rubrica del bio sulla camelina, una crucifera, lontana parente del colza, che sta attirando molti interessi e sperimentazioni. Seconda puntata dedicata alle zucchine nello spazio dell'orto, e invece al crescione in quello riservato alle piante che crescono anche da noi. Quali accorgimenti bisogna avere nella scelta dei cibi quando si è in viaggio? Invece il tema della sicurezza alimentare, mentre si parlerà di polpettoni con una ricetta originale nella rubrica della gastronomia. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Sette anni fa muoveva i primi passi un'esperienza collettiva di gestione della filiera cerealica o la solidale e sostenibile della farina e del pane. Era il Comitato dei Frazionisti di San Marco con il suo famoso PAN di San Marc, un'esperienza che sta crescendo e si parla di distretto di economia solidale. Di cosa si tratta? Ne parliamo oggi con Giulia Cesarin, che è la coordinatrice di questo progetto. Il distretto di economia solidale è un orizzonte ambizioso, diciamo, che si è posta la cooperativa agricola di comunità DES Friul di Miecce, che ha raccolto l'esperienza dei beni collettivi di San Marco e ha cercato di estenderne la scala. Quindi da un progetto pilota che riguardava i 5 ettari di beni collettivi di San Marco si è passati alla coltivazione di circa 25 ettari all'anno di diversi tipi di frumento. Questa granella viene prodotta dagli agricoltori della cooperativa, viene coinvolta in una filiera locale. E arriva con il pane nei panifici. Esattamente, ci sono una quindicina di panifici coinvolti, una ventina di botteghe locali sparse sul territorio del Medio Friuli e non solo, che quindi poi possono arrivare sulle tavole di moltissimi cittadini. Cos'è un distretto di economia solidale? C'è una legge dietro, anche una legge regionale? Sì, la legge regionale per l'economia solidale è passata 2 anni fa ormai e sta iniziando a vedere, insomma, i primi effetti concreti. La filiera era già partita e in questo modo viene riconosciuta come filiera di economia solidale, che adesso fa perno su questa filiera già avviata, ma che intende anche farne partire di nuove che possano interessare altri prodotti locali e sostenibili. E avete già anche dimensioni interregionali? Sì, attualmente siamo coinvolti nel progetto AgriLink, che è un progetto europeo sulla sostenibilità e innovazione in agricoltura, mentre dal punto di vista sociale siamo stati selezionati quali una delle migliori 3 idee di innovazione sociale sul territorio friulano, grazie al bando SIA, Social Impact for the Alps Adriatic Region, che quindi ci darà la possibilità di sviluppare al meglio anche tutta una serie di attività che coinvolgano la comunità. Ha parlato di comunità, la gente come reagisce, cosa pensa, cosa vi dice? La gente è sicuramente molto contenta del prodotto finale, che ovviamente è di elevata qualità, sia la farina, che essendo macinata anche a pietra in un mulino locale può garantire qualità nutrizionali e organolettiche di alto livello, e ovviamente anche poi nel risultato finale del pane. I cittadini sono molto coinvolti anche attivamente, abbiamo anche un buon numero di volontari che supporta la filiera. Per adesso la vostra area di azione qual è? Principalmente il Medio Friuli, anche per rimanere fedeli alla nostra idea di filiera locale. Ci estendiamo comunque anche a Udine e dintorni. I conti cominciano a tornare? Sì, i conti cominciano a tornare, diciamo che c'è ancora molto da fare per essere indipendenti da finanziamenti a progetto e sponsorizzazioni. Certo è che la buona volontà degli attori della filiera inizia a far vedere i risultati concreti. si chiama cameline ed è una nuova specie che può essere coltivata con successo anche in Friuli Venezia Giulia. Giorni fa a Milano un grande convegno ne ha decantato le lodi. Per noi le fa Cristina Micheloni che ci cura la rubrica del bio. Ma sicuramente le lodi sì, anche se l'abbiamo vista solo quest'anno per la prima volta, quindi aspettiamo per dare proprio un giudizio definitivo. Comunque è una coltura, è una crucifera, la parente più piccola se vogliamo del colza, e proprio nel convegno di Milano, come dire, recentissime pubblicazioni, vengono messe in risalto le proprietà del contenuto in antiossidanti, soprattutto omega 3, ma non solo omega 3, che sono di interesse sia per l'alimentazione umana, ma anche per la zootecnia, quindi per la mangimistica. Un'altra cosa interessante dal punto di vista utilizzo è che oltre all'olio che se ne estrae, lascia come prodotto collaterale un pannello di interessantissime proprietà nutrizionali per quanto riguarda invece la proteina, non solo come quantità di proteina ma come, anche come profilo aminoacidico, che è addirittura migliore e può essere anche complementare a quello della soia. Inoltre ci piace dal punto di vista agronomico perché? Perché è una coltura abbastanza frugale, viene seminata nella prima quindicina di ottobre e si raccoglie da metà a fine maggio. Non ha bisogno di grandi input, non ha bisogno di grande lavoro, è molto resistente al freddo, è una coltura che proviene dal centro Europa, le varietà attualmente disponibili vengono dal centro Europa, dal Canada e ci sono anche alcune selezioni italiane recentissime, però ancora un po' da provare. E lascia il terreno libero a maggio, per cui ci dà anche la possibilità eventualmente di fare una coltura a seguire, ha anche un'azione antinematode, quindi come molte crucifere lascia nel terreno degli essudati che sono deterrenti ma anche negativi per i nematodi, quindi anche le colture a seguire, sto pensando per esempio a una patata, potrebbero giovarsi anche di questa opzione. In Friuli ne abbiamo seminate un paio di ettari lo scorso ottobre, quindi adesso è una bellissima fioritura che ospita anche un sacco di insetti utili e andremo a fine maggio probabilmente a raccoglierla e quindi saremo anche in grado di dire cosa se ne può fare dal punto di vista utilizzo. Ci sono anche delle piccole difficoltà ancora da affrontare, il seme è molto piccolo per esempio, quindi la preparazione del letto di semina e la semina devono essere molto accurate. Inoltre per quanto riguarda le varietà, noi quest'anno ne abbiamo seminata una che ci sembrava interessante, ma c'è un mondo da scoprire. E la spremitura del seme richiede un impianto, essendo così piccolo il seme, un impianto appositamente studiato, non esclusivamente per la camelina, però insomma ci va un po' di cura. Direi che la sfida è interessante, l'opportunità è assai concreta, siamo friulani per cui un po' di giusto trattenimento dell'entusiasmo ci sta, però forse è una di quelle colture su cui potremmo ragionare in più agricoltori per creare una vera filiera. Stefano Montella oggi ci propone la seconda puntata dedicata alle zucchine e alla caducità delle loro piante. Abbiamo già accennato come il maestoso portamento della pianta dello zucchino, una volta estratta dalle radici, si riduca a ben poca cosa, anzi a nulla. E allora, di fronte a questo sfarinarsi e sfaldarsi, a questa morte così ostentata, quasi irriverente nei confronti di chi la osserva, viene da credersi: ma qual è il senso? E davvero ha un senso la bellezza se dopo una settimana, un mese, un giorno, tutto torna a disfarsi in molecole e di tutta la materia vegetale, di tutta la natura di cui siamo composti, non resta neppure abbastanza per coltivare un'oncia di terra? Una filosofia spicciola ci dice che non è così importante avere le risposte quanto farsi delle domande. E oggi che, lo si voglia o no, a moltissime domande abbiamo già avuto delle risposte, come la mettiamo? Io non trovo poi così importante sapere tutti perché una pianta di zucchino in una settimana sola si trasforma in polvere, è vero. Però è altrettanto difficile non chiederselo il perché. E a questo proposito il professore Umberto Galimberti, filosofo, prova a darci una risposta, che non è e neppure non vuole essere una risposta. Dice: e se il rimedio fosse altrove? Non nella ricerca esasperata di senso come vuole la tradizione giudaico-cristiana, ma nel riconoscimento di ciò che ognuno di noi propriamente è, e dunque della propria virtù, della propria capacità, o per dirla in greco, del proprio daimon, che quando trova la sua realizzazione porta alla felicità, in greco eudaimonia. Questo, aggiunge Galimberti, potrebbe farci fiorire, fiorire la nostra arte di vivere. Ecco, come non essere d'accordo? Sono soltanto parole, ma sono parole belle, buone e giuste, ma è abbastanza? Non so, so soltanto questo. D'altronde, a questa stessa conclusione doveva essere arrivato anche lo scrittore francese Montaigne, che che nel suo castello aveva uno studio tutto decorato di pensieri e massime dei più grandi pensatori. Ma la citazione che lui preferiva, e che non a caso si trovava al centro del soffitto del suo studio e sotto la quale lui si stendeva, non si sa se in contemplazione o in meditazione, recitava: «Non capisco, non so, so soltanto questo, ma cerco per intuizioni o tentativi di coltivare il mio spirito e i miei pensieri, e quindi il mio orto, con curiosità e grazia. Tutto qui. I fiori delle zucchine, impanati però, sono una delizia». Il crescione, tutti pensiamo di conoscerne virtù e proprietà, ma non se ne sa mai abbastanza. Oggi ci aiuta a conoscerlo meglio Antonino Danelutto. Acque dolci e limpide di sorgenti, di rigagnoli, di fossi risorgive. Questo è l'habitat del crescione, il cui nome scientifico è Nasturtium officinale, quello friulano Cresson o Rucule di Aghe. Lo si può incontrare in pianura e nella zona collinare, è poco diffuso e lo si riconosce facilmente per la sua particolare morfologia. È glabro, ha fusto radicante, prostrato o natante, raramente tutto eretto, lungo alcune decine di centimetri. Le foglie sono impari pennate, con segmenti rotondeggianti. I fiori sono riuniti in brevi grappoli, hanno calice brunastro, corolla di 4 petali bianco-lattei e antere gialle. Il frutto è una siliqua. Le foglie giovani vanno raccolte solo dopo aver accertato che le acque non siano inquinate. Parimenti è da evitare la raccolta nei ruscelli che attraversano i pascoli, in quanto il crescione, infettato da deiezioni animali, può trasmettere un verme parassita del fegato degli ovini, la fasciola epatica. In ogni caso è consigliabile lavare accuratamente le foglie e, prima del loro consumo, lasciarle in immersione per qualche ora in acqua acidulata con limone. Hanno un sapore deciso e un po' piccante, dovuto alla presenza di sostanze solforate, le stesse che hanno suggerito il nome latino nasturtium, cioè che fa torcere il naso a causa del forte odore penetrante della pianta. Le foglie vanno mangiate crude in insalata, da sole o miste ad altre erbe, e possono essere impiegate anche per insaporire le salse verdi, le zuppe e le minestre di verdure. Tritate aromatizzano bistecche, formaggio, burro, sottaceti. Tuttavia non bisogna abusare del crescione, potrebbe causare irritazioni gastriche e cistiti. Le foglie trovano impiego anche nella medicina tradizionale. Devono essere utilizzate fresche e crude perché, se essiccate o cotte, i principi attivi si alterano e vengono meno le proprietà curative. Sono espettoranti, diuretiche e depurative, indicate per disintossicare gli accaniti fumatori. Sono ricche di sali minerali e di vitamine, soprattutto di vitamina C. Per uso esterno, le sostanze solforate aumentano l'irrorazione del cuoio capelluto e di conseguenza danno vigore al capello. Il crescione si può coltivare anche nell'orto o in vaso, ma richiede solitamente un'abbondante e frequente innaffiatura. Le sue virtù erano note già nei tempi antichi. Le foglie venivano raccomandate come espettoranti, come afrodisiache o come corroboranti, mentre il succo era ritenuto efficace contro il mal di denti e la caduta dei capelli. Dopo 4 puntate dedicate alle etichette, oggi con Claudia Fontanini dell'Ufficio Qualità del Consorzio FTB, che ci cura la rubrica Qualità e Sicurezza sulle nostre tavole, siamo di nuovo ai temi della sicurezza alimentare, oggi quella in viaggio. Un'altissima percentuale dei viaggiatori che si spostano da un paese industrializzato ad uno più povero va incontro a qualche tipo di disturbo. Le stime parlano del 20-70%. Bisogna in particolare prestare attenzione se si viaggia in paesi caldi o con condizioni igieniche non ottimali e se i viaggiatori rientrano nelle categorie a rischio, cioè bambini, donne in gravidanza, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso. Per un'alimentazione sicura in viaggio è utile ricordare alcune semplici regole, quindi lavarsi le mani spesso e sempre prima di mangiare e di manipolare cibo. Il cibo cotto deve essere separato da quello crudo per evitare che si ricontamini. Fare attenzione al rispetto di questa regola nei buffet di hotel e ristoranti e se si compra cibo di strada. In generale, mangiare cibo ben cotto e ancora caldo. Meglio evitare piatti contenenti uova, carne o prodotti ittici crudi o poco cotti e formaggi freschi prodotti con latte non pastorizzato. Il cibo deve essere tenuto a temperature sicure. Evitare di consumare cibi di buffet, mercati, ristoranti e venditori ambulanti se non sono tenuti caldi o refrigerati o in ghiaccio. Scegliere acqua e alimenti sicuri. Una delle cause di tossinfezioni più frequenti è l'acqua contaminata. In paesi a rischio è opportuno consumare acqua e bevande confezionate, aperte al momento, escludendo l'aggiunta di ghiaccio. È consigliabile usare acqua di bottiglia anche per lavarsi i denti. Mangiare crude solo frutta e verdura che possono essere facilmente lavate o pelate. È generalmente buona regola scegliere i ristoranti più affollati, che garantiscono un rapido smercio di cibi. Meglio evitare salse e condimenti lasciati sul tavolo al caldo. Controllare in ogni caso il livello di igiene del locale. In caso di dubbio, meglio cambiare posto e, se siamo in una vacanza organizzata, segnalarlo alla direzione di eventuali villaggi vacanze o al tour operator. In conclusione, mai dimenticare il vecchio detto del viaggiatore: lavalo, sbuccialo, cuocilo o evitalo. La proposta cultural gastronomica che ci fa oggi Roberto Zotter ha bisogno solo di ricotta, prosciutto e un pollo e ci fa entrare nel variegato mondo dei polpettoni in maniera originale. Le polpette sono amate e conosciute da tutti, anche se spesso sono erroneamente connesse all'idea del riciclo di avanzi, mentre possono anche rappresentare una pietanza raffinata. Nella loro accezione più classica sono un assemblato di carne trita, spezie, pane o patate, un legante come le uova, con il quale si preparano delle palline leggermente schiacciate ai poli. Ma possono essere preparate anche con pesce, verdure o legumi. Protagoniste dei fast food americani, di cui abbiamo adottato anche il nome, hamburger, in realtà hanno origini antiche. Già i romani, nei loro fast food di allora chiamati Thermopolium, servivano degli hamburger ante litteram che Appicio chiamava isicia omentata, fatti di carne trita, pinoli e bacche di mirto, racchiusi poi in rete di maiale. La parola polpetta appare nel ricettario de arte coquinaria del cuoco del patriarca di Aquileia di metà del 1400, anche se il maestro Martino non si riferisce a carne trita, ma a gustosi involtini di sottili fette di carne ripieni di spezie e cotte allo spiedo. Pellegrino Artusi, a fine 800, scriveva: «Non crediate che io abbia la pretensione di insegnarvi a fare le polpette. Questo è un piatto che tutti lo sanno fare, cominciando dal ciuco, il quale fu forse il primo a darne il modello al genere umano». Le polpette artusiane si fanno con carne lessata, prosciutto grasso, parmigiano, uva passolina, pinoli, pane, latte e uova. Artusi aggiunge: «Formate tante pallottole del volume di un uovo, schiacciate i poli come il globo terrestre, panatele e friggetele nell'olio o nel lardo. Poi, con un soffrettino d'aglio e prezzemolo e l'unto rimasto nella padella, passatele in una teglia, ornandole con una salsa d'uova e agro di limone». I polpettoni sono realizzati più o meno con lo stesso impasto delle polpette. Se però li cuociamo in uno stampo da plum cake, foderato magari da fette di prosciutto o di lardo, otteniamo una terrina di carne da servire a fette, che è uno dei piatti raffinati tipici della cucina francese. Oggi vi propongo un gustoso polpettone di pollo senza uova, molto bello perché è bianco con il bordo rosso. In una ciotola amalgamate 400 g di ricotta con 400 g di pollo tritato due volte e 100 g di parmigiano grattugiato. Formate un polpettone, avvolgetelo in 250 g di fette di prosciutto crudo, disponetelo su una teglia unta d'olio e infornate a 140 gradi per un'ora, bagnandolo ogni tanto con il fondo di cottura. Potete anche farlo in versione mignon e servirlo come finger food elegante su un crostino. È ottimo servito sia caldo che freddo. Buon appetito! Ed ora Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora con tendenze a ribasso. Venerdì scorso le contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,30 e 16,50 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento buonomercantile tra 19,80 e 20,10, l'orzo tra 18,80 e 19,30 e la soia tra 32,20 e 32,70. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 1 euro e quello della soia di 5,50 centesimi il quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini nel macello quotano le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,30 e 2,80 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,60 e 2,30. Quotazioni pure confermate nel settore dei vitelli da ristallo, dove i Blubelga maschi vengono pagati tra 5,70 e 6,30 euro al chilo, IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,50 e 5,10, i frisoni tra 1,50 e 1,80, i bruni tra 1,40 e 1,70. Spunti di ripresa invece nel settore suinicolo, dove i lattonzoli franco partenza di 30 kg sono pagati a 2,93 euro al chilo, IVA esclusa, e i grassi da macello a 1,22. In ripresa anche il comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,40 e 5,95 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,80 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, e lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Mentre il latte naturale di vacca franco partenza, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 37,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Nella scorsa settimana, martedì e venerdì, sono passati due fronti sulla regione e hanno portato piogge intense, specie sulla fascia prealpina, con quasi 380 mm fra la Val Tramontina e la Val Cellina. Valori molto alti anche sulle prealpi Giulie, con oltre 300 mm a Musi, in Val Torre, oltre 178 mm a Tolmezzo. Valori inferiori invece sull'alta pianura e sulla pedemontana e ancora più bassi verso la costa, con appena 15 mm a Trieste. Ieri l'instabilità presente sulla regione ha provocato anche temporali con grandinate sulla media e bassa pianura. L'instabilità è stata causata dalla presenza di aria fresca in quota e dal soleggiamento già abbastanza importante, che ha permesso una consistente evapotraspirazione dei terreni, abbondantemente bagnati dalle piogge dei giorni scorsi. Le temperature medie finora in questo mese sono state tra mezzo grado e un grado in più rispetto alla norma degli ultimi 30 anni, ma non si sono registrate finora ondate di calore eccessive. Tra oggi e domani, l'arrivo di una depressione dall'Atlantico settentrionale, con aria piuttosto fredda e umida, provocherà di nuovo piogge da abbondanti ad intense. In montagna farà ricomparsa la neve, anche abbondante sulle Alpi Giulie, in genere oltre 800 mm circa, ma probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Le temperature sono destinate a calare sensibilmente, la costa tornerà a soffiare bora sostenuta con un lieve miglioramento appena lunedì pomeriggio. Questi episodi non ci devono meravigliare, la primavera alla nostra latitudine, nella normale vicissitudine climatica, è fatta anche di ritorni di freddo e maltempo, anche se è vero che negli ultimi anni questi episodi erano divenuti più rari, facendoci credere di attendere in aprile solamente belle giornate soleggiate e miti. Martedì ancora variabilità, con qualche rovescio o qualche possibile temporale pomeridiano, ma le temperature massime saranno in ripresa. Mercoledì, 1 maggio, dovremmo avere tempo migliore con cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio sulle zone interne sarà possibile cielo variabile. Nella seconda parte della settimana l'evoluzione delle masse d'aria sull'Europa non è molto chiara. Non si intravedono al momento robusti anticicloni che portino bel tempo stabile, per cui è probabile che a mattinate buone con cielo poco nuvoloso seguano poi nei pomeriggi annuvolamenti con possibili rovesci, sempre che non si affacci sul Mediterraneo una nuova depressione proveniente dall'Europa settentrionale, che provocherebbe maggiore instabilità. È molto opportuno quindi seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: se al blu fa il dì di San Marco, nessun è pome e va tal quarp, ovvero se piove il giorno di San Marco, il 25 aprile, nessun frutto va nel corpo, ovvero non se ne mangerà proprio. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.